Care amiche, cari amici, la puntata di oggi si inserisce nelle interviste agli autori di libri. In questo caso parliamo con Adriana Migliucci, che ha collaborato a zia Mariella nella trascrizione e commento del diario della prigionia del nonno, dell'internamento del nonno, il brigadiere dei carabinieri reali Mario Migliucci, catturato insieme ad altri 2000 carabinieri circa a Roma durante il rassegnamento da parte tedesca del 7 ottobre 1943. Il libro di cui parliamo, ma della vicenda a cui fa riferimento, ha un titolo evocativo: Schegge di buio, scaglie di luce. Avevamo già registrato una pod recensione al volume, trovate in descrizione il link. Abbiamo pensato però che fosse importante parlare con chi aveva lavorato questo progetto familiare, così grazie alla disponibilità di Adriana e alla ospitalità della casa del podcast siamo riusciti a realizzare la registrazione che sentirete tra poco. Una nota personale. Si tratta del primo episodio di podcast che ho registrato davanti un pubblico presente alla casa del podcast, è venuto appositamente questo evento. E sebbene io sia abituato a parlare di fronte a una platea, posso dirvi però che la cosa mi ha un po' emozionato. È stata una bella esperienza e consiglio a voi che ascoltate di iscrivervi alla casa del podcast, che si trova all'interno di Technotown, una realtà del comune di Roma ubicata in Villa Torlonia sulla Nomentana e poco distante da Porta Pia, per tenervi aggiornati sulle iniziative ospitate in questo bel luogo speciale per molti creator. Desidero ringraziare l'Astipod, l'Associazione Podcaster Italiani, la Casa del Podcast e Fabio Barbati, che ha realizzato un bellissimo servizio fotografico durante la registrazione. Ringrazio anche Adriana Migliucci di Stesi dalle Tesi, che vi consiglio anche questo di andare a vedere sui social e sul sito Stesi dalle Tesi, che ha gentilmente consentito alla mia richiesta di chiacchierare su questo tema a me molto caro. Lascio subito la parola alla registrazione e mi auguro che la nostra chiacchierata possa piacere. Aspetto un vostro commento. Grazie. Allora, buonasera a tutti quanti. Questa sera abbiamo un'intervista come storia dei carabinieri ed è un episodio speciale, un episodio dedicato alla storia dell'arma. In particolare questa sera chiacchieriamo con Adriana dopo che abbiamo ricevuto interviste da parte di altri autori che hanno pubblicato libri sui carabinieri direttamente o indirettamente. Adriana Migliucci, l'ho scritto in questo script, lo diciamo, è una splendida podcaster e autrice del progetto Stesi dalle Tesi.it che aiuta tutti noi a conoscere i percorsi di studio più disparati. E con lei ci confrontiamo su un volume che vedete qui, Schegge di buio, scaglie di luce, taccuino di un giovane IMI al campo prigionieri di Rosenheim durante la Seconda Guerra Mondiale, curato da Mariella Migliucci, che è la sua zia. Buonasera. Allora, Adriana, ti ho introdotto brevemente, ti vuoi presentare? Buonasera Flavio e grazie per questa presentazione. Aggiungo solo che sono una felicissima socia Assipod, Associazione Italiana Podcasting, che gestisce questo spazio, Casa del Podcast, che ci ospita anche questa sera. Allora, ricordiamo per tutti, stiamo registrando dalla Casa del Podcast, sede dell'associazione podcaster Assipod. Okay. Parliamo dunque di questo libricino, Schegge di buio, scaglie di luce. Si tratta in buona sostanza del diario di un giovane brigadiere dei carabinieri reali, Mario Migliucci. E a te chiedo, chi era Mario Migliucci? Proprio se lo chiedi proprio a me, ti dico che era il mio amatissimo nonno. Se in generale era appunto carabiniere a cavallo, che fu internato come moltissimi altri carabinieri, quasi 710.000 mi pare, carabinieri furono internati durante la Seconda Guerra Mondiale all'indomani dell'armistizio. il 7 ottobre del 43. Esattamente. E dunque si ritrovò catturato e deportato nell'ottobre 43 come internato militare italiano in Germania. E la caduta del fascismo in Italia, la dichiarazione dell'armistizio e altre vicende complesse di quei giorni difficilissimi lasciarono i carabinieri in una grande tensione, una grande difficoltà, a cui fece seguito poi l'azione dei tedeschi, che con la complicità dei repubblichini portò alla cattura dei carabinieri in più riprese, a partire dal settembre 43, ma soprattutto a Roma il 7 ottobre 43, per colpa o a causa degli ordini draconiani di Rodolfo Graziani, che all'epoca era ministro della difesa nazionale della Repubblica Sociale. Adriana, vuoi aggiungere qualcosa tu a quanto abbiamo detto? Mio nonno all'epoca aveva 33 anni, perché è nato a Napoli nel 1910 e quindi era nel pieno della sua gioventù, e come molti altri carabinieri rimase fedele al giuramento che aveva fatto alla patria, e quindi non né fuggì come altri né insomma, rimase strenuamente a difendere la caserma Pastrengo ai Parioli, dove era come si dice di servizio, distanza, di servizio. Certo. e fu appunto arrestato, preso prigioniero insieme a molti altri quel 7 ottobre del 43, quando arrivarono proprio i paracadutisti tedeschi a catturarli. Sì, allora brevemente lo vogliamo ricordare, c'è già un libro molto interessante che è intitolato proprio 7 ottobre 43 e dedicato a quella giornata e a quello che è successo prima e anche dopo. E con la scelta dei tedeschi avallata da Berlino di catturare prima di tutto i carabinieri su Roma, perché erano l'elemento che avrebbe disturbato l'azione successiva, quella del 16 ottobre, che era il rassegnamento di ebrei nella capitale. E quindi Graziani, che era stato nominato ministro nella sedicente Repubblica Sociale Italiana, decise di utilizzare le sue competenze da coloniale, dando gli ordini draconiani che prevedevano la fucilazione degli ufficiali e la cattura e internamento anche delle famiglie se avessero disobbedito agli ordini. Questo successe praticamente dalla sera alla mattina dopo. In realtà sappiamo che i carabinieri deportati da Roma furono tra i 1500 e i 2500, e molti di questi, molti carabinieri che non furono catturati, perché questo è buffo, questa volta successe il contrario, cioè furono avvertiti magari dal negoziante di fronte alla caserma, furono avvertiti da poliziotti, furono avvertiti da gente comune che c'era qualcosa di grosso che accadeva nelle caserme più importanti di Roma, come Piazza del Popolo, la caserma Pastrengo, attuale sede del Comando Generale, e ancora a Ottaviano alla sede della Legione Allievi, e poi un'altra quarta caserma che era a Trastevere, dove i tedeschi erano intorno e avevano praticamente circondato e non si poteva più né uscire né entrare. Alcuni furono folli in quei momenti e scapparono calandosi attraverso i muri e passando da un tetto all'altro, altri ancora furono proprio all'ultimo istante, non entrarono e riuscirono a dileguarsi nella confusione che c'era. Ti voglio chiedere dunque che cosa ci vuoi dire qualcosa a proposito di questa idea che avete avuto tu e tua zia di pubblicare il taccuino, perché pubblicarlo nel 2010 non prima, e cosa ha significato per te aiutare tua zia nella stesura del diario, che emozioni hai vissuto in questo lavoro? Emozioni fortissime che mi sento e mi porto dentro ancora, e che mi danno un grandissimo insegnamento di energia, di fede, di speranza, di vita. Mio nonno era una persona super positiva, super aperta alla vita, quindi non ha mai voluto raccontare tutta questa cosa tremenda che ha vissuto lui, come tanti altri, nel campo. Quindi non ci ha mai voluto far parte di questa storia terribile. Sapevamo, mia zia e gli altri miei fratelli sapevano di questo diario, ma lui non aveva mai fatto, non ce l'aveva mai fatto vedere, insomma, non era mai stato oggetto. E poi quando, insomma, era già così bello averlo comunque lì vivo, che poi non glielo richiedevi, anche per rispetto. E negli ultimi anni, poi, quando, insomma, qualche cosa gli ritornava alla memoria, c'era qualche ricordo, mi ricordo benissimo, insomma, che qualche cosa gli ritornava, ma non non ci raccontava niente. Mi ricordo che il 25 aprile lui era felicissimo, era proprio la vera festa per lui. E, però questo diario poi era rimasto quando lui è morto nel, di vecchiaia, proprio il 27 ottobre del 94. Poi dopo un po' di tempo mia zia e mio padre e l'altro mio zio, insomma i fratelli, l'hanno ritrovato nel comodino proprio, in questo diario, insieme ad altre medaglie. E da lì man mano abbiamo deciso di ritrascriverlo, anche perché era scritto... Noi veramente non sappiamo come l'abbia potuto scrivere, perché le perquisizioni erano veramente pazzesche, e con una matita indelebile su carta millimetrata, quindi essendo passati oramai tantissimi anni, più di 50 all'epoca, era veramente qualcosa di davvero difficile da decifrare. Poi mio nonno aveva pure una grafia particolare, e poi immagino che comunque dovendolo scrivere così di fretta, era veramente così. Io, mia zia e le altre persone della famiglia abbiamo deciso: ritroviamoci quando possiamo. Avevamo preso un po' l'impegno ogni domenica e di ritrovarci a trascrivere questo diario. Lei, che soprattutto conosceva la grafia di mio nonno, ma anche mio padre e mio zio, riuscivamo insieme con molta fatica a decifrare questa grafia, e io lo trascrivevo, mi pare, al computer, così poi dopo man mano è venuta l'idea anche di farne un libro, perché quello che abbiamo letto era veramente qualche cosa che sentivamo proprio la voglia di trasmetterla agli altri, non poteva rimanere tra noi della famiglia. E questo comunque è successo nella fine degli anni 90, quindi erano passati già un po' di anni. Nel frattempo, dopo pochi mesi dalla morte di mio nonno, è morta pure mia nonna. Io dico proprio per amore, lei si è spenta il giorno che mio nonno è morto, perché avevano vissuto per 80 anni insieme, e come si vede anche in questo diario c'era un amore fortissimo tra di loro. Quindi abbiamo fatto comunque passare un po' di tempo e ci siamo ripresi da entrambe, certo, le loro morti. Poi man mano questo diario ha proprio bussato ai nostri cuori e ci siamo ritrovati ogni domenica a trascriverlo. Poi dopo è passato ancora altro tempo, poi ovviamente ci è voluto anche tempo per capire come pubblicarlo e tutto quanto, e quindi poi è arrivato il 2010 e mia zia ha avuto appunto l'idea di farne questo libro, che abbiamo presentato, abbiamo anche proposto, e dopo un attento esame di veridicità è stato anche accolto nella biblioteca della Camera dei Deputati. Ottimo, ottimo. E ti voglio chiedere, quali sono le tue impressioni? Cioè, tu hai fatto anche il lavoro, diciamo, scrivere a video, no? E quindi battere sui tasti della tastiera del computer dà una dimensione diversa, secondo me. Io l'ho vissuto per altre esperienze sempre di studio e di ricerca. E tu come l'hai vissuta questa trascrizione? Cioè, che cosa ti ha, che emozione che ti ha tirato fuori? Cosa hai pensato? L'ho vissuta proprio un po' come se stessimo un po' costruendo proprio un ponte tra il suo passato e quello che poteva essere il futuro, mettendolo in digitale, questo diario. E, quindi sì, un'idea proprio di la voglia di trasmettere questa enorme carica di vita, di fede e di amore che c'è in questo diario, che finalmente, grazie appunto rendendolo una pagina scritta sul computer, poteva viaggiare chissà tra quante persone, e anche finalmente anche grazie ai podcast. Assolutamente. E questo va detto anche per chi ci ascolta in presenza: gli IMI erano una categoria che non esisteva nel diritto internazionale, cioè erano internati militari italiani, una categoria che stesso Hitler aveva voluto per sottrarre gli italiani al controllo della Croce Rossa, delle convenzioni di Ginevra che tutelavano i prigionieri di guerra. Quindi in linea teorica il prigioniero di guerra non poteva fare un lavoro a meno che lui non fosse d'accordo e aveva diritto a alcuni standard minimi, e invece per gli IMI queste cose non furono garantite. Anzi, nelle pagine del diario, e forse l'ho già detto anche nella, diciamo, pod recensione, una delle parole più ricorrenti è fame, freddo e sofferenza, nevica, una percezione di una vita, diciamo, di pochi mesi. In realtà è più di un anno, sarà un anno e mezzo e più, che però è ogni giorno è una lacrima, ogni giorno è una goccia di sangue che tuo nonno ha scritto su questo taccuino, su queste carte. Sì, erano sottoposti a lavori pesantissimi di continuo trasporto di casse, di bauli pesantissimi, di saponi, di candele, di carta, con la carta quando è tantissima è davvero pesante, come si capisce anche nel suo diario. Continui trasporti carbone, ghisa. Sì, si parla di stufe di ghisa che pesavano tantissimo e lui si fa male anche durante una di queste operazioni. Lavoravano dalla mattina dalle 7:30 alle 8 fino alle 17:18 senza sosta e in tutte le condizioni atmosferiche possibili. Senza indumenti necessari a quelle atmosfere. Ecco. Ricordi qualcosa di tuo nonno carabiniere? Magari l'uniforme, il carattere, la sua vita, diciamo, militare. Che cosa hai? Allora, da carabiniere me lo ricordo solamente nelle foto, perché grazie anche al foglietto che mi hai inoltrato, appunto il diario, diciamo, della sua vita da militare, lui, ho scoperto che lui è andato in pensione il 5 agosto del 72, io sono nata quello stesso mese, quindi ha fatto il nonno a tempo pieno da quando io sono nata. Quindi no, non me lo ricordo in azione, mi ricordo sicuramente appunto le foto, ma c'era sicuramente nel suo carattere è rimasto questa grandissima responsabilità per gli altri, questo grandissimo anche senso di solidarietà e senso proprio dell'impegno e proprio schiettezza, insomma, come ti posso dire, proprio serietà, la serietà bella d'anima, insomma, la serietà, dico una cosa, quella... Sì, quella è. Beh, ho visto nel diario, in realtà ho notato che forse sono due casi, se non ricordo male, in cui alcuni altri militari, diciamo, commettono delle scorrettezze, ecco, diciamo così, e lui le annota, e non è severo, però ne sì, tiene sì, traccia, non le lascia passare, ha preso nota, ecco, si poteva dire. Quello che mi fa piacere sottolineare di questo da qui è che credo che sia l'unico veramente scritto nel momento in cui lui viveva quelle cose, quindi non è un diario scritto a posteriori, quando poi i ricordi un po' si trasformano, li elabori così. Questo è un diario veramente seduto a stante, scritto veramente non si sa come, quando lo riusciva a scrivere, solamente verso la fine, in quei mesi anche tremendi, dal 2 maggio quando il campo è stato liberato fino al 29 giugno quando sono stati finalmente trasportati a Innsbruck per poi arrivare a Bologna e poi finalmente a Roma, lui scrive, annota, scrivo il mio diario, è solamente mezza riga in cui lo scrive, ma in quei mesi in cui oramai era tranquillo di poterlo scrivere. E quindi sono brevissime annotazioni, immagino anche proprio nello stile tipico dei brigadieri che dovevano... trascrivere prima di questo avvenimento, insomma, nella loro vita naturale da carabinieri, trascrivono i fatti della giornata, quindi con questa schiettezza, con questa semplicità, anche dovuta appunto alla fretta del tempo, del momento, però è l'unico diario scritto sul campo. Nel campo. Forse c'è un secondo, c'è quello del maresciallo Sabatini che era in servizio a Piazza del Popolo, uh-huh. È quello su cui poi la maggior parte dei cerchi si è concentrato, e questo è un altro grande aspetto che fa dimenticare non solo i carabinieri, ma in realtà tutti questi internati militari italiani, cioè la difficoltà di poter avere una matita e un pezzo di carta per scrivere ciò che accadeva davvero in quei campi, in quei giorni, in quelle condizioni, diciamo, drammatiche di vita che hanno vissuto. E di non farsi ritrovare, perché le perquisizioni erano a nudo, i giacigli venivano perquisiti. Per cui... Esatto, quindi la seconda difficoltà era quella di riuscire a portare poi, diciamo, chi tornava a casa, e purtroppo molti non tornarono, di tornare a casa e di poter avere con sé questa testimonianza che quindi rende ancora più prezioso il diario il taccuino di tuo nonno. E infine volevo aggiungere un'altra cosa che mi interessa, che storici della resistenza come Battaglia, che voglio dire è un antico, scrive negli anni 60, scrive la storia della resistenza, e lui ricorda correttamente che tra i resistenti ci furono anche questi IMI, cioè loro resistettero, diciamo, alle tentazioni del regime fascista repubblicano o repubblichino e non aderirono, esatto. Non sottoscrissero un giuramento in cui, diciamo, non credevano, e sapendo che rimanendo, diciamo, stare in Germania significava soffrire e soffrire e patire, quando riuscivano, ricordo bene, quando vengono, hanno la possibilità di prendere in mano delle patate e poi non essere scoperti è un grande successo, e la patata rappresenta la cena che arricchisce quel poco di zuppa di rape che ricevevano, sì, insomma. Era l'elemento di sopravvivenza. E devo dire, in questo senso, ecco, parlare di questi protagonisti come tuo nonno per me è importante, perché nel 2023 rappresenta una ricorrenza fissa, diciamo tonda, se vogliamo, e in questo senso, certo, altri parleranno di altri momenti importanti, però per me che sono carabiniere e per diciamo, l'istituzione, il 7 ottobre è una data infausta che da qualche anno, per fortuna, si ricorda anche ufficialmente nelle, diciamo, nelle nostre celebrazioni, diciamo, un po' più tristi di questa vita, di questa lunga storia dei carabinieri. Ti ringrazio, non avevo mai pensato a questa conseguenzialità dei fatti del 7 e del 16 ottobre, per cui ora mi è chiarissimo perché l'hanno... Questo, purtroppo le testimonianze sono anche da parte tedesca, non, ed è chiarissimo ed è accomuna in questo destino italiani che in un caso indossavano uniforme e l'altro aveva una fede religiosa diversa. E questo crea poi una serie di altri problemi per quanto riguarda i carabinieri, perché... in realtà, in base alle disposizioni che abbiamo ricevuto, sarebbero dovuti rimanere sul posto. Allora, questo grosso servizio di cattura dei carabinieri spinge anche altri militari in altre parti d'Italia a vivere un grande disagio. Che faccio? Rimango a fianco, diciamo, della popolazione qui a fare il servizio del carabiniere, oppure mi sottraggo e passo o la resistenza, cerco di tornare magari verso il fronte? Furono grandi momenti di grandi, certo, difficoltà da un punto di vista poi emotivo. Le scelte furono alla fine quasi personali, limitatissime. Purtroppo tuo nonno non poté scegliere perché fu, diciamo, catturato, buggerato da quelli che questi, diciamo, fascisti repubblichini che volevano in realtà punire un po' tutti i carabinieri. Quindi ci misero dell'oro oltre a quello che era la richiesta avanzata dei tedeschi. Però affrontò tutto questo con una grandissima forza d'anima, che è il vero messaggio di questo diario, con un grandissimo senso, proprio con un grandissimo amore che lo nutriva, pensando alla sua famiglia e tutto quello che ogni volta, in ogni riga, lo salva per pensare al futuro. Quindi è lui stesso un ponte, mentre scrive, tra quello che stava vivendo, il presente, e il futuro che desiderava, che sognava. Aveva 34 anni, si era sposato, certo, da poco, aveva un figlio di un anno, un altro appena nato, insomma. Per cui questo amore per la sua concettina e per questi bambini è quello che l'ha tenuto in vita, insieme alla grandissima fede, sì, che aveva, sì, questo, la fede si vede, si legge tantissimo, ed è effettivamente un grande aiuto per una persona situata in una situazione del genere. No, non l'ho letto bene, però anche nelle tre righe si legge la solidarietà presente tra i militari che sono almeno nella stessa baracca. Per quanto potesse essere sofferente, ci si divideva anche magari quella mezza patata, quel mezza pagnotta di pane che riuscivano a recuperare o che ricevevano in dono qualche tedesco, sì, fuori dal campo. Sì. Mi ricordo per esempio che c'è scritto che anche il giorno del primo compleanno appunto di mio zio, lui offre una bottiglia di birra a tutta la baracca per festeggiare da lontano il primo anno del figlio. Sì. E per lui deve essere stata una grande spesa, però era quell'atto di solidarietà che accomunava le persone, le manteneva vive e presenti in una dimensione, diciamo, così lontana quella che vivevano, cioè si trovava un po', ecco, anche una celebrazione, un festeggiamento di questo genere. Qualche nome c'è, per cui magari insieme a qualche bravo archivista si possono anche recuperare gli altri, i suoi compagni, chissà. Chissà, qualche nome. Vediamo. Questo è un lavoro per il 2024. Va bene, io mi fermerei qua, ecco. Volevo, ti chiederei se vuoi aggiungere qualcos'altro, o possiamo aprire magari anche poi i microfoni a... Sì, volevo dire che il libro comunque ci sono, insomma, poche copie, però è a disposizione di chi lo vuole leggere o con contattandomi direttamente, me o mia zia appunto, in omaggio, oppure facendo una donazione libera all'Associazione degli Orfani Militari Carabinieri. All'Onomac. Dove c'è un, esatto, dove c'è un conto corrente che poi se magari se vuoi linkarlo, postarlo. Sì, dentro... sì. Quando diciamo nella parte del suo episodio sì. Daremo, segniamo tutto quanto. Va bene, io aprirei un attimo il... Ci fanno segni. Se ne leggiamo un passo. Vai tu, vado io. No, fai tu. Io ne scelgo uno, ma... Allora, possiamo leggere... E sono tutti belli. Aspetta, che abbiamo... Vabbè, vado totalmente a caso. 1 gennaio 1945. La neve continua a cadere, se n'è fatta sui 40 centimetri. Per grazia del buon Dio anche oggi mi hanno lasciata in pace senza lavoro. Ho inviato con il cuore i migliori auguri alla mia cara e ai bimbi. Ho passato la giornata vicino alla stufa, confezionandomi un paio di scarpe con pezzi di coperta da usare negli zoccoli. Il vitto è uguale agli altri giorni. Anche oggi ho tanto pregato e mi corico, pregando affinché la guerra finisca presto per poter ritornare alla mia cara casa. Leggerei il 3 gennaio. Vai. Neve tutta ghiaccia, freddo orribile, lavoro pesantissimo e tremendo. Scrostare col piede la neve dalle rotaie della Loconville e poi dal suolo duro di ghiaccio. Il lavoro mi ha rotto i reni e ho i piedi da non sentirmeli. Pazienza, piano. E volontà del buon Dio mi è dato. Alle 10 circa allarme, senza danni per noi. Pomeriggio mi mandano a spalare la neve. Dopo poco mi mandano alla fabbrica della carta per scaricare un vagone di rulli da 3 quintali di carta. Ho finito alle 4 e riposo fino alle 17 vicino a un calorifero. Questo lavoro, che è stato di grande sforzo, per grazia del buon Dio mi ha fruttato 1/2 chilo di pane, che per me è stato un gran regalo. Ho tanto pregato anche oggi e pensato alla mia cara e ai bimbi. 20 settembre 44. Nebbia, fitta nebbia. Lavoro pesante, anzi pesantissimo. Scarico vagoni giunti dalla nostra Italia, carichi di materiale vario e imballato. Pazienza. Prego comunque il buon Dio che faccia finire presto tutto questo e mi faccia ritornare dai miei sani e salvo. Dai miei sani e salvo. Pazienza è una delle parole che ricorre di più insieme a nevica, fame. 17 febbraio 45. Sole, un po' freddo e nebbia. Lavoro in città uguale a ieri. Mi hanno dato 2 fettine di pane, sempre ringraziando il buon Dio. Si è saputo che tra i tanti danni di ieri per bombardamento hanno lasciato la vita anche molti italiani, essendo stato colpito ricovero. Quello forse era il loro destino e ho pregato per le anime loro. Il lavoro è finito alle 12, ma in baracca sono arrivato alle 14:30, ora in cui è finito l'allarme. Ho tanto pensato alla mia cara e ai bimbi e mi corico con il pensiero di vederli almeno in sogno. Ultimo giorno, foglietto aggiuntivo inserito nel diario. Lungo il percorso fin qui ho potuto vedere le orribili rovine della guerra. Finalmente ho portato a termine il viaggio. Sono giunto a Roma, Tiburtina, alle ore 12:10. Giunto finalmente a casa circa alle 13. Ed è proprio in questa schiettezza così scritta come scriveva che però c'è dentro un sacco di emozione della semplicità quanto può essere molto più significativa di tante parole. Leggo un'ultima data, il 29 giugno 45. Pioggia. Vado ad ascoltare la Santa Messa perché oggi è festa di San Pietro. Di rientro in baracca, con grande mia gioia, trovo i camion che ci vengono a prelevare per condurci al campo. La gioia è immensa. Sotto la pioggia parto in camion. I canti, le risate, si giunge e ci si accampa in tende. E i tedeschi ora ci portano i pagliericci. Si vocifera che domani si parte. Il comandante offre un intrattenimento e il nostro omaggio ci comunica che entro domani nessun italiano starà più in questa terra dura e vigliacca di Germania. Mi metto spagliericcio alle 24 ma non dormo. Fuori piove. Finalmente viene il giorno. Il 2 maggio quando sono state liberate è l'unica volta che scrive tutto in maiuscolo. Quando incontro un soldato americano a Monaco. Sì, di colore, che parla italiano, che gli dice guarda... La tua prigionia è finita. Sì, sono le pagine, diciamo, non dico allegre, però le pagine che prive di tensione, prive di sofferenza, sono pochissime. Iniziano effettivamente con la fine dell'internamento, con la liberazione, quando gli americani arrivano ormai in città. Non sappiamo neppure se prima del 1 gennaio 1944, da quando inizia il diario, lui avesse scritto qualcosa, ci fosse perso, oppure se ha iniziato col 1 gennaio. Probabilmente... Non sappiamo niente. Di no, io penso che per una persona abituata a scrivere, qui lui scriveva sempre, ogni giorno cercava di lasciare una traccia, probabilmente l'ha fatto, quindi si può pensare che in realtà quella parte sia andata persa, come capita tante volte, per quanto uno cerca di essere attento, per quanto diciamo, riesca a nascondere gli oggetti più cari durante le ispezioni dei guardiani. Ecco. E, potrebbe essere bellissimo comunque che abbia conservato questo diario nel comodino per tutti gli anni. Ed è bellissimo che voi l'abbiate trascritto, quindi mi sembra una esperienza molto importante per tutti ed è utile ricordare le cose, ricordare quello che è stato vissuto in passato, per fare in modo che anche nel presente ci sia chi abbia consapevolezza di quello che è significato per il nostro paese poi arrivare alla fine della guerra e soprattutto arrivare alla scelta di una forma di Stato come la Repubblica Italiana e la Costituzione che abbiamo oggi. Ed è una grandissima proprio testimonianza di speranza, che è qualcosa di molto più fattivo e concreto di quanto possiamo immaginare. Uno pensa che la speranza non serva a niente o che sia, invece, è un motore della vita. Io adesso passerei, se c'è qualche domanda da parte del pubblico che è presente qui all'interno della casa del podcast. Chiedo solo di venire qua, se dispiace, e di parlare al microfono. Volevo chiedere se lui vi ha parlato alcune volte, insomma, di questo taccuino, perché immagino che, insomma, comunque se c'era questo taccuino, voi mi sembra che avete detto che non ne avete parlato molto. Però, insomma, in ogni caso qualche cosa avrà detto, penso, della sua prigionia, del suo internamento, qualche cosa, ero un po' curiosa di sapere. Molto, ti dico, qua. Veramente molto molto poco. Che io mi ricordi, appunto, gli ultimi mesi gli venivano proprio in mente dei ricordi, dal nulla gli venivano in mente dei ricordi come se li stesse vivendo in quel momento, insomma. A me, poi noi eravamo piccoli, per cui una persona come lui mai ci avrebbe rattristato con queste cose. Non so se appunto poi a mio padre, che non posso più chiederlo, o a mia zia abbia detto qualche cosa di più, ma credo di no, credo molto poco. Assolutamente no, era proprio un suo riservo, lui l'aveva scritto, secondo me lui era, come si possa dire, era sicuro che l'avremmo trovato e che quindi avrebbe parlato per lui questo diario. Sì. In genere... Non l'avrebbe lasciato nel comodino. In genere, parlo per un po' per altre esperienze, ho notato che chi vive traumi così importanti non ne parla, quindi è estremamente difficile che ci sia il bisogno di raccontarlo, e magari capita solo nella prima fase di rientro per molti internati, sono stati studiati già in passato e non erano considerati, ecco, furono un po' bistrattati dalla società in qualche modo, come perché ritenuti a torto incapaci di essere una parte attiva, no? Invece fu un momento di resistenza passiva, se vogliamo, ma resistenza importante. Fu una scelta che la Repubblica Sociale faticò a governare, perché si trova davanti 500-600.000 uomini che dissero che non erano interessati a combattere sotto un regime che non riconoscevano. Comunque probabilmente a mia nonna quei giorni, qua appena è tornata, avrà raccontato, perché era irriconoscibile, è stato sottoposto ovviamente a cure, quindi insomma immagino che abbia raccontato. Beh, ma forse solo tua nonna, ma forse neanche no, direi. Non lo so. Ecco. Va bene, io direi che possiamo considerare conclusa la nostra chiacchierata sulle vicende che videro Mario Migliucci e tanti altri carabinieri italiani protagonisti di una delle pagine della Resistenza spesso dimenticate. E fu una scelta durissima, il rifiuto delle lusinghe avanzate dalla sedicente pubblica sociale italiana e la decisione consapevole di rimanere a vivere il dramma e la fame dell'internamento che le pagine di Mario riescono a restituire con la loro drammaticità. Allora, noi ringraziamo molto Adriana per aver aderito al nostro invito e trascorso qualche minuto davanti ai microfoni, e ringrazio chi ci ha seguito. Lo invito a leggere il volume Schegge di buio, scaglie di luce, taccuino di un giovane Imi al campo prigionieri di Rosenheim durante la Seconda Guerra Mondiale, curato da Mariella Migliucci, pubblicato nel 2010. Poi lascerò una descrizione, diciamo, delle modalità per poterlo acquistare o comunque ricevere. Io aggiungo solo che il titolo la dice lunga, per cui insomma consiglio di leggerlo, perché nel titolo c'è tutta l'essenza del diario, il buio della guerra e la luce dell'amore. Assolutamente. Va bene, molte grazie e una buona serata. Arrivederci.